Uyelelema, uyelelema masiya chavula tina. Yelelema, yelelema. Au ye. Yelelema, yelelema. Zimbabwe. Yelelema, yelelema. Au ye. Yelelema, yelelema. Zambia. Yelelema, yelelema. Au ye. Yelelema, yelelema. Malawi. Yelelema, yelelema. Au ye. Yelelema, yelelema. Mozambique. Yelelema, yelelema. Au ye. Yelelema, yelelema. Angola. Yelelema, yelelema. Au ye. Yelelema, yelelema. Botswana. Yelelema, yelelema. Au ye. Yelelema, yelelema. Lesotho. Yelelema, yelelema. Au ye. Yelelema, yelelema. Swaziland. Yelelema, yelelema. Au ye. Yelelema, yelelema. South Africa. Yelelema, yelelema. Siyajabula thina. Yelelema, yelelema. Siyajabula thina. Yelelema, yelelema. Siyajabula thina. Yelelema, yelelema. Siyajabula thina. Yelelema, yelelema. Oh Africa. Yelelema, yelelema. Oh Africa. Yelelema, yelelema. Oh Africa. Yelelema, yelelema. Oh Africa. Yelelema, yelelema. Oh Morocco. Yelelema, yelelema. Oh Somalia. Yelelema, yelelema. Oh Ghana. Yelelema, yelelema. Oh Nigeria. Yelelema, yelelema. Oh Gambia. Yelelema, yelelema. Oh Sierra Leone. Yelelema, yelelema. Oh Kipite. Yelelema, yelelema. Oh Africa. Yelelema, yelelema. Siyajabula thina. Yelelema, yelelema. Siyajabula thina. Yelelema, yelelema. Siyajabula thina. Yelelema, yelelema. Siyajabula thina. Yelelema, yelelema. Oh Africa. Yelelema, yelelema. Oh Africa. Yelelema, yelelema. Oh Zimbabwe. Yelelema, yelelema. Oh Zimbabwe. Yelelema, yelelema. Siyajabula thina. Yelelema, yelelema. Siyajabula thina. Yelelema, yelelema. Siyajabula thina. Yelelema, yelelema. Siyajabula thina. Yelelema, yelelema. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Oh Ethiopia. Oh Uganda. Oh Kenya. Oh Tanzania. Oh Ghana. Oh Nigeria. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Siyajabula thina. Ciao a tutte e tutti e ben ritrovati e ritrovate alla trasmissione Uru. Dopo un po' di tempo ricominciamo. Come avete sentito, abbiamo deciso per quest'anno di cambiare la sigla e abbiamo scelto un brano dei Black Unfulosi. Praticamente è un gruppo che suona, che canta a cappella, un po' multidisciplinare. Si sono formati da studenti del George Mlundika School di Bulawayo in Zimbabwe e cantano in lingua ndebele, la lingua appunto di questa regione. Hanno preso il nome dai rivoluzionari Zulu del XIX secolo, il reggimento Black Unfulosi. Anche se di solito si esibiscono in un ensemble di circa 18 elementi, praticamente si espandono e si ritraggono a seconda dei periodi per arrivare anche a 900 membri. Allora, cominciamo subito con la puntata di stasera e presentiamola. Se la puntata di stasera riguarda la 61ª puntata di Uru, tratta delle colonne sonore dei film africani diretti da registi africani ambientati in Africa, le quali colonne sonore sono interpretate da artisti, donne e uomini africani. Quindi il tratto d'union è questo: non ci sarà una omogeneità musicale, nel senso si va da brani rap a brani, brani canzoni, chanson, diciamo come quella di Franklin Bukaka insieme a Manu Dibango, a cantanti, cantautrici, cantanti, donne, in questo caso griot, insomma. Non c'è una omogeneità musicale, ma la base, il tradunio, il comune denominatore sono appunto brani musicali di colonne sonore, di film africani, diretti da registi africani e interpretati da attori africani, oltre che prodotti da paesi africani. E quindi partiamo con il primo pezzo, di Zola, è un rapper molto conosciuto, molto famoso in Sudafrica, e il primo pezzo è tratto dalla colonna sonora, probabilmente uno dei film più conosciuti prodotti in Africa. Si tratta di District 9, questa fantascienza, chiamiamola così, sotto certi aspetti anche distopia, in cui gli alieni, rovesciando un po' quello che era il regime dell'apartheid sudafricano, arrivano dalla porta di servizio, parcheggiano la loro astronave nei cieli di Johannesburg, in questo caso non hanno intenti nefasti, ma sono in cerca d'aiuto. È il primo lungometraggio del sudafricano Neil Blomkamp, in questo caso un bianco, però diciamo che le tematiche riguardano proprio quelle, erano le problematiche, appunto le tematiche del Sudafrica prima della fine dell'apartheid. I tenti politici e satirici sono più che ovvi, gli extraterrestri come gli immigrati del futuro e le vittime dell'apartheid del passato, contro lo sfruttamento della criminalità, gli scontri culturali, il cinismo dei potenti che vorrebbero sfrattarli. E tutto questo viene raccontato in questa sorta di documentario, questo movie documentari. La colonna sonora, in questo caso, è composta da è fatta, diciamo, da svariati artisti. Zola è un musicista, poeta, attore sudafricano, è nato a Soweto, Southwest Township, una delle più conosciute township del Sudafrica, e ha avuto un passato fatto di disoccupazione, alcolismo, padre di suo ha abbandonato la famiglia, insomma tutta una sorta di quello che si può considerare una delle tante vite, diciamo, sotto l'apartheid. Zola rappa in isiZulu e utilizza lo Tsotsitaal, che tra l'altro è una lingua creola parlata nelle zone urbane della provincia del Gauteng, soprattutto nella zona di Soweto e Johannesburg, ed è un incrocio fra Zulu, Sesotho, Setswana, inglese e Afrikaans, oltre a influssi da altre lingue del paese. Una lingua chiaramente in continua evoluzione, con numerose varianti locali del posto. È diffusa attualmente a tutti i livelli della società, anche se inizialmente era associata soprattutto alla criminalità, alla popolazione dei ghetti, e tra l'altro si ripresenterà l'occasione di riaffrontare, di risentire questa lingua, questo Tsotsitaal, anche in un altro pezzo successivo, che vi proporremo successivamente. Questo è Zola, una sonora appunto tratta dal, il pezzo è tratto dalla una sonora di District 9. Tra l'altro, un'altra particolarità è che District 9 ha preso il nome proprio rifarsi a questo District 6 di cui vi abbiamo parlato altre volte nelle trasmissioni di Uru, questo District 6 che era il quartiere multiculturale di Città del Capo, di Cape Town, multiculturale e multietnico, che fu raso al suolo durante il regime dell'apartheid, dal governo dell'apartheid, dal governo bianco, per una mega speculazione edilizia, oltre che chiaramente a voler distruggere una coesione sociale che faceva paura non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista politico del regime dell'apartheid. E quindi Neil Blomkamp, nel dare il nome al film, ha voluto proprio rifarsi una sorta di omaggio, diciamo, alle radici, alla multietnicità del Sudafrica, questo District. Quindi questo è Zola, il pezzo si intitola Singu 7. Etingutetafuleni singu seven, amantombazane kamelweni angu seven, kebengisamaziphelele singu seven, kuluva sekuyaphetha zophenduka amatafula. Etingutetafuleni singu seven, amantombazane kamelweni angu seven, samas pelele singu kulumpa sekyameta so peluga matafuda Ipohlela lokrina mantombazane please shesha twali caravana zalo so drive ufuna uhlebela lomntwana shisa matekwane kube mhlopha amafastela thathi back seat dress tudla kikitela khumula iphathi mhlinga ngilindo zokhuluma Tombazane uzotilika Ifunga koshua please buyele kaya Afuni shite seni nkokotelo amapoisa Isha izule wasikebe muso jaiva Short left short right koma lapu zopanga Asas kunjani lasia kona nyokaka Kuna majita langa panda kova bandwana If they try this shit so shia kalwa Heti ngut teta fuleni simu Sefe Ama tombazane kamelweni angu Sefe Kebe msamas pelele simu Sefe Kuluva segia pete zofenuga matafuna Heti ngut teta fuleni Double packs ya bagi kat yang saba guest list ya makakas jena mahala ibalza u plaza kolungane organizer with a VIP 10 floor sa jive a DJ siza lapo ndo tatlala lengomba no smoke in the club zo shissing causa kemi microphone mshugu misa lebanza utlevo futa makala skebengu yang owa a fucking non-stop kuze kuzi club owner mandeta nshone bang mambi pia ngholi kona stepping good teta fuleni simu sefe ama tomba sane kamelweni angu sefe Kevin Summers Pelele Simu Sefe Kulufa Segia Petas of Enuga Matafuna Petting Good Teta Fuleni Simu Sefe Amandomba Zane Kameleni Amu Sefe Kevin Summers Pelele Simu Sefe Kulufa Segia Petas of Enuga Matafuna Fuleni simu sefe amantombazane kamelweni angu sefe kebem samas pelele simu sefe kunuva segia pete zofenuga matafuna petting good teta fuleni simu sefe amantombazane kamelweni angu sefe kebem samas pelele simu sefe kunuva segia pete zofenuga matafuna Prima di continuare e di ascoltare il prossimo pezzo, vi ricordo un po' di social della radio. Il sito da cui state ascoltando in streaming è wombat.noblogs.org. Vi ricordo che con la AM, con la radio, specialmente quando siete in macchina, ci potete ascoltare 13.59, scusatemi, non me lo ricordavo, 13.59. Sempre dal sito potete ascoltare tutti i podcast di tutte le trasmissioni della radio fin dall'inizio. La radio ha anche un profilo Twitter che è twitter.com/radiowombat.fi. La mail per comunicare con noi, postawombat@insiberia.net. Vi ricordo che Uru ha un proprio profilo Twitter perché ci piaceva mandare anche qualche notizia dall'Africa, quindi se siete interessati specialmente a questo argomento, il profilo Twitter è uru-rw di Radio Wombat. Vi volevo anche dire, controllate il palinsesto perché sono cambiate diverse trasmissioni, l'orario di diverse trasmissioni, sono iniziate trasmissioni nuove per fortuna, quindi controllatelo sempre perché vedete che effettivamente ci sono sempre dei cambiamenti. Sì, le nuove trasmissioni, qui salutiamo Radio Contado, parla appunto del mondo agricolo e notizie, quindi Uru, suoni e notizie dal continente africano, e quindi una notizia riguarda i contadini mozambicani contro le multinazionali della soia. Una superficie pari a 8 volte il Portogallo, cioè 88 milioni di ettari di terre fertili, sono stati acquistati o affittati in ogni parte del mondo, stati multinazionali e finanziari all'inizio del XXI secolo. Un fenomeno in continua in espansione, continua espansione, che ha ricevuto un primo e storico stop in Mozambico. Nel 2011, infatti, il governo dell'ex colonia portoghese nella zona sud-orientale dell'Africa aveva annunciato il progetto Po Savana, una cooperazione con Brasile e Giappone per convertire 14 milioni di ettari di terreni fertili nell'area nord del paese, nota come corridoio di Nacala, in monocultura di soia, chiaramente da esportazione. Una superficie che è più dell'estensione dell'intera Grecia, dove abitano quasi 5 milioni di persone, maggioranza contadini. A 7 anni dal suo lancio, il Pro Savana non è mai partito. I giapponesi hanno ridotto i fondi, la squadra tecnica brasiliana è tornata a casa. E il governo mozambicano ha così sempre più difficoltà a portare avanti il piano originario a causa della lotta, per fortuna, dei contadini mozambicani. La campagna contro il Pro Savana è stata la più grande vittoria della società civile contro l'accaparramento delle terre in Africa. Un risultato raggiunto grazie all'attivismo delle popolazioni locali, che da tempo lamentano mancanze di terreni coltivabili e conflitti destinati ad aumentare con l'arrivo dei land grab, latifondisti e dei finanzieri interessati anche alle risorse naturali come l'acqua. Così spiegano i contadini che abitano nell'area in cui doveva installarsi Pro Savana e che non sono stati neppure consultati su progetti di così vaste estensioni. Nonostante quello che dice il governo, noi non mangiamo semi di soia, noi consumiamo le produzioni locali. Pro Savana prevedeva l'impiego di maestranze del luogo per la produzione, ma i contadini sostengono che già loro producono il 90% del cibo consumato, loro utilizzano per il 90% il cibo consumato nel paese, e se si sarebbe trasformati in braccianti non avrebbero potuto dedicarsi alla coltivazione per uso familiare. E questo, tra l'altro, è un aspetto dell'economia africana molto spesso non preso in considerazione, ecco, anche quando si parla di redditi bassi, nel senso che i contadini, i pescatori, i cacciatori che coltivano, pescano o vanno a caccia, diciamo, utilizzano molto spesso, quasi sempre, specialmente nei territori più distanti, diciamo, dai centri di smistamento delle merci, quello che cacciano, quello che coltivano, quello che pescano per usi propri. Quindi in questo caso, quando c'è un leg grab, c'è sempre, o un sea grab, c'è sempre un doppio svantaggio per le popolazioni del luogo: il togliere le terre e togliere contemporaneamente il reddito. Ambientalisti, sindacalisti e coltivatori riuniti in una campagna intitolata Now o Pro Savana lo hanno boicottato per anni e ci sono riusciti. Adesso il programma è congelato e il segnale che cogliamo nel villaggio e territorio di Nacala, quello a cui appunto si doveva installare questa mega produzione di soia, ci fanno pensare che il governo non abbia ancora rinunciato a trasformare la savana in distesa di soia per l'agrobusiness, e per questo la nostra lotta va avanti. La nostra campagna continuano a sottolineare gli attivisti appunto della resistenza contro Pro Savana. La nostra campagna continuerà a resistere contro un'idea di sviluppo escludente e discriminatorio basato sull'agronegozio e ci viene imposto dall'altro e per di più finalizzato all'accumulazione del capitale. Quello che è successo nel corso degli anni è che, in fronte agli attivisti, ha portato avanti le sue iniziative, nonostante che una parte delle organizzazioni non governative abbia tentato, accettato un'interlocuzione con il governo, mentre invece un'altra parte, cioè quella dell'associazionismo delle forze locali, proprio di chi abita nel territorio, non molle e continua a incalzare l'agenzia giapponese che la finanzia e la controparte mozambicana. Dal 2014 a oggi la strategia del concorso nippo-brasiliano è cambiata e si sta facendo più sottile, tentando appunto di insinuare, di mettere divisioni nel fronte anti-pro-Savana. E quindi gli attivisti non si fidano della marcia indietro di Maputo su questo progetto e continuano a portare avanti, a organizzarsi per eventualmente controbattere ai nuovi tentativi di installare questa mega produzione di soia. Sta di fatto che al momento, nonostante su queste ci siano gli interessi del governo, dei multinazionali brasiliane e giapponesi, il progetto è fermo proprio per la tenacia e la combattività degli abitanti del posto, e si sono organizzati dal basso per combattere questo accaparramento di terre. Siamo in Sudafrica per un film Tsotsi, cui significato, come si diceva prima riguardo alla lingua, vuol dire teppista in Sesotho. Questo qui è un film di Gavin Hood, praticamente un giovane sudafricano che vive nella township di Johannesburg. Praticamente attraverso i flashback del protagonista si scopre la sua vita e che da piccolo ha avuto continue violenze da parte del padre e lui trova rifugio assieme ad altri orfani e bambini di strada in un ammasso di tubi e costruzioni in cemento all'estrema periferia della città, che costituisce a livello visivo una delle immagini più suggestive del lungometraggio. È stato girato nei sobborghi di Johannesburg e utilizza nei dialoghi l'autentico miscuglio di lingue parlate oggi nella township. Per questo è da ascoltare in versione originale con i sottotitoli in italiano. L'autore del pezzo, della colonna sonora ora che vi facciamo ascoltare invece è Vusi Sidney Malasela Kakwane, nato a Pretoria, è un cantautore sudafricano. Viene spesso considerato come la voce del Sudafrica. Nelle sue canzoni Vusi Masela affronta importanti tematiche come la lotta per la libertà e il suo lavoro è stato di ispirazione per molti nel periodo dell'apartheid. Di lui vi facciamo ascoltare due pezzi, il primo è Esale Noka. Kwaindlela eyakha yamasisha umfula impilo kayesathi balweni anuka iyele impilo umfula impilo kinuka umfula namandla nuka imandla umfula mawungele Le ga imidi tswe ke letsatsi e la lele ganata Isalenuka Uma ukholelwe imvula ugelezelwe zinyembezi Kusase umvula Kusasa ilanga lizokukhanyisela indlela eya ekhaya ungene emasangweni uthingo lwenkosazana endaweni enye yakho Isalenuka Kusase umvula Kusase umfula Isalenuka Kusase umfula Sì, a proposito di appuntamenti, in questi giorni, cioè domani e domenica e sabato prossimo, cioè domani 13 e sabato 20, compleanno del centro sociale gestito Next Emerson, centro sociale in via di Bellagio 15, festeggia. Ora sono 12 anni e in totale sono 29 anni di occupazione. E quindi domani cena. Inizia alle 21, ma preceduta dalla presentazione di un libro sull'antipsichiatria di Robert Whittaker, che poi mette appunto in relazione l'assunzione degli psicofarmaci con l'insorgere di problematiche psichiatriche. E questo prima appunto alle 19, successivamente seguito dalla cena appunto e ancora successivamente dal concerto dei Polemica alle 22, dalle 22.30 circa e in uno spazio e in un altro spazio del centro sociale, cioè lo spazio Tango Sognato, la Milonga. Mentre invece sabato prossimo 20 ottobre, compleanno del centro sociale ma anche compleanno della svolta Sound System, una sorta di una crew diciamo che molto spesso organizza iniziative serate al centro sociale, e appunto il compleanno appunto con la svolta Sound System più altri gruppi sempre comunque dell'area reggae ska. Quindi invitiamo tutti a partecipare a queste due serate. Centro sociale autogestito Next Emerson, via di Bellagio 15. E abbiamo detto precedentemente, anche parlavamo del pezzo precedente della, che è della, fa parte della colonna sonora di Tozzi, questo film appunto che guarda la storia di Tozzi, appunto significa teppista in questa lingua, è Tozziland, parlata nelle township in particolare a Johannesburg. Era un pezzo breve, ve ne facciamo ascoltare uno più lungo, sempre di Vusi Maselela, che si intitola Silang Mabele. Leave. me karina wotle relwantse kumana ho ena silana bene khamandi ho tsatsile kibini le appunto 61esima puntata, io ho quasi 2 anni di trasmissione, così come sono quasi 2 anni di Radio Wombat, un po' è compleanno a fine mese e prossimamente per l'inizio di dicembre una festa appunto per far conoscere la radio, per di autofinanziamento e insomma per sostenere Radio Wombat, FM 1359 e streaming wombat.noblogs.org streaming. E appunto Uru, suoni, musica e notizie a continente africano, un argomento che di cui vi abbiamo informato, cerchiamo di informarmi fino dalle prime trasmissioni di Uru, con una cadenza periodica, è appunto il ruolo dell'ENI insieme ad altre multinazionali petrolifere, in particolare la Shell, nell'inquinamento nel sistema tangentizio della Nigeria. E abbiamo già parlato precedentemente, accennando appunto a un processo che si sta tenendo a Milano contro appunto le compagnie petrolifere Eni e Shell, accusate di aver pagato tangenti al governo nigeriano per ottenere l'assegnazione di ricchi pozzi petroliferi offshore, cioè appena fuori, diciamo, in mare, non in mare aperto, diciamo a poche miglia dalla riva, comunque sempre in territorio nigeriano. Sono finite le lunghe e a tratti ipertecniche fasi preliminari e si entra nella fase dibattimentale, così da fare chiarezza sulla tangente da 1,1 miliardi di dollari pagata nel 2011 da Eni e Shell per aggiudicarsi questo ricchissimo giacimento offshore in Nigeria denominato OPL 245. Ricordiamo tra l'altro che l'Eni non è un semplice multinazionale, ma non è una compagnia privata, ma è una compagnia di Stato, una compagnia in cui lo Stato italiano, quindi il governo, ha le sue responsabilità. In realtà la corruzione, che ci sia stata la corruzione, è già acclarato non solo da un punto di vista politico e sociale, ma anche da una sentenza emessa il 20 settembre con un rito abbreviato chiesto da 2 dei 13 imputati, cioè un nigeriano, Emeka Obi e Gianluca Di Nardo. Gli intermediari, che erano appunto intermediari in questo affare, sono stati condannati a 4 anni di reclusione per concorso in corruzione internazionale. Il processo attuale riguarda più che altro principalmente di acclarare le responsabilità di tutti, diciamo, i personaggi all'interno di questo apparato di mazzette, di tangenti, diciamo, di corruzione. E quindi sono iniziati i primi interrogatori da parte del giudice, diciamo da parte della corte, di questo processo che si tiene a Milano. E dopo aver rigettato le richieste di costituzione di parte civile di organizzazioni britanniche e italiane, in particolare in Italia Recommon, che sono organizzazioni, si sono battute e si stanno tuttora battendo per i diritti dei popoli che abitano nella regione, dopo comunque aver rigettato queste richieste di costituzione di parte civile, il Presidente della Corte ha iniziato a interrogare il manager principale di Eni e Shell, e appunto vi aggiorneremo successivamente di come sta andando avanti questo, nelle prossime puntate di Uno, di come sta andando avanti questo processo. Sta di fatto che il processo entra nel vivo, e quindi cercheremo anche attraverso appunto il profilo Twitter di Uru di darne conto. E ritorniamo alle colonne sonore, ai film, e parliamo questa volta di Timbuktu, la città maliana del nord del Mali. Un film molto bello e purtroppo molto attuale, perché ancora adesso nel Sahel ci sono scorribande di integralisti islamici che scendono specialmente dalla Libia, e quindi l'argomento è proprio attuale. Il film è di Aberrame Sissako, che ha raccolto le testimonianze di episodi vissuti direttamente dalla gente di Timbuktu, facendo un lavoro di decostruzione cronachistica e ricomposizione narrativa, scegliendo cioè gli episodi più funzionali per la rappresentazione del film. Così, solo per citarne alcuni, abbiamo la pescivendola che si rifiuta di mettersi i guanti perché non potrebbe pulire il pesce al mercato e si ribella alla polizia islamica. I ragazzi fustigati per aver cantato e suonato e per essere stati nella stessa stanza uomini e donne. Il ragazzo fustigato per aver ascoltato musica. Il confronto, e questa è una parte molto bella del film, tra l'imam della moschea di Timbuktu e il leader dei jihadisti sull'interpretazione dell'Islam, dove il primo propugna un'idea di pace e di dialogo, mentre invece il secondo vede solo una fede cieca dove applicare la sharia alla lettera. Sissako praticamente mette in scena il dramma di un'intera popolazione, quella africana, di fronte alla barbarie di una religiosità integralista e ottusa. A chi non parla arabo, dopo aver elencato tutto quello che è vietato fare, ad un certo punto del film il jihadista con un megafono va in giro e parlando francese perché lo possono capire tutti, e elencando tutto quello che è vietato fare, alla fine dice: è vietato tutto. Ovviamente l'assurdità di tale affermazione è rafforzata ancora di più dall'assurdità dei comportamenti. Sissako è il sacro dei rituali africani, della vita quotidiana in armonia con la natura, con il paesaggio, con gli altri esseri viventi, si scontra con la religiosità dei jihadisti, dove il dogma diventa legge a cui sottomettersi, e questo è proprio lo scontro che si registra in tutto il film. Gli attori sono tutti non professionisti, e Sissako ha scelto dei volti espressivi e utilizza un'alternanza continua di primi piani e campi lunghi per far vedere sia lo spirito ma anche la bellezza del paesaggio, che resta immutato e intatto pur essendo scena di violenze continue. È un film veramente molto bello e ve lo consigliamo per la seconda volta. La colonna sonora, noi abbiamo scelto un brano di Fatoumata Diawara, che pur essendo nata in Costa d'Avorio è praticamente una chitarrista, compositrice e attrice maliana, perché ci ha abitato fin da 12 anni. È autrice e compositrice. Fatoumata Diawara prende ispirazione dal canto tradizionale Vassulu, ma anche influenze moderne come il jazz e il blues. Il tratto essenziale del suo canto è l'accostamento delle linee armoniche tipiche di Vassulu, regione al confine tra Mali e Guinea, e del cantato tradizionale femminile, e molto, molto frequente in questa regione, ma mescolato con elementi della tradizione europea. Di lei vi ascoltiamo proprio tratto dal film, quindi che riporta anche il nome del film nel titolo, Timbuktu Faso. Koyene faso e mbale mwalu Tombuktu yene faso e Ngoyene faso e sinilu Tombuktu yene faso e Gode minzenu le kasele lala badinya duwe Tombuktu e Sindia, Sindia, tu è malibaye. Yankalu, yane, faso. Oh, oh, oh, oh. Da questa trasmissione abbiamo spesso parlato dei griot, questa sorta di cantastorie che appunto parlano di quello che è successo, i fatti che succedono nei loro paesi, anche perché molto spesso in Africa non ci sono parole scritte, nel senso i libri costano, i libri appunto non vengono scritti, non vengono stampati per difficoltà logistiche, per mancanze materiali, e anche è molto più difficile, diciamo, trasportare il supporto con sopra la parola scritta, e quindi i griot assumono questa importante presenza all'interno non soltanto, diciamo, della tribù o dell'etnia, ma diciamo per quanto riguarda proprio da un punto di vista storico, e trasmettono quello che sono stati i fatti salienti del paese. E a Karaban, un paese, uno dei paesi principali della Casamance, che è una delle regioni principali a sua volta del Senegal, quella è confina, quella è, diciamo, sta tra il Gambia, che è appunto questa piccola nazione che si insinua all'interno del Senegal, e da un lato, e dall'altro la Guinea, Karaban, che è uno dei paesi in cui è più forte la tradizione criò, e in questo caso è un ristorante, il ristorante Barracuda, che è una tappa obbligata per tutti quelli che percorrono la Samans, e quindi non soltanto da parte di chi rimane in Senegal, ma anche da parte di chi emigra dal Senegal, oppure dalla Guinea, oppure dal Gambia, per andare verso nord, in altri paesi dell'Africa, e poi magari successivamente in Europa. I griot hanno iniziato proprio perché il loro scopo, la loro caratteristica è quella di trasmettere la storia da un punto di trasmettere oralmente attraverso le canzoni, attraverso i testi e le canzoni, la storia del paese. Hanno iniziato a cantare a proposito delle migrazioni e dei migranti. E tutto ciò non soltanto a Karaban in Senegal, ma anche nelle periferie delle grandi città come Dakar oppure San Luis. E quindi in questo caso appunto c'è un pezzo, uno dei pezzi, dei primi pezzi composti e poi successivamente sembrano una sorta di ballata, e poi successivamente magari viene ripresa anche da altri griot. Si parla di un naufragio di tantissimi giovani partiti con un barcone, decine di profughi e migranti, e invece di una vita migliore hanno trovato la morte in mare. Tenete presente, fino a ora, fino a pochi anni fa, i griot, che appunto si tramandano le storie del paese, tramandavano le storie, partivano dai regni dell'Africa del Medioevo, 1400-1500, poi passando attraverso la tratta degli schiavi, poi le prime rivolte, le lotte di liberazione, fino ad arrivare, diciamo, agli inizi degli anni della post indipendenza. E niente, ora hanno cominciato, proprio perché sarà un aspetto saliente della storia di questi paesi subsahariani, hanno cominciato a comporre e a cantare ballate sull'emigrazione. Cambiamo ancora paese e parliamo di Viva Riva. Un film di cui ascolteremo un pezzo della colonna sonora, che è un film thriller congolese del 2010, scritto e diretto da Jotunda Vamunga. Il film ha avuto 12 nomination e vinto 6 premi al 7° African Movie Academy Awards, da cui premi come miglior film, miglior regista, miglior fotografia e miglior scenografia. Un'impresa che lo ha reso il film vincitore più alto della storia di questi premi. Il film praticamente segue un contrabbandiere di Va, che dopo aver portato una spedizione di carburante a Kinshasa è inseguito da un gangster, Cesar, che vuole rubare il carburante che Riva trasporta. E Cesar usa il ricatto per ottenere l'aiuto di un ufficiale locale, il comandante chiamato, che appunto accede a informazioni che lo possono aiutare alla ricerca. Nel frattempo Riva si innamora di Nora, la compagna di un gangster locale, Azor, e quindi i conflitti praticamente che risultano da questo intreccio si ribellano mortali per quasi tutti i principali personaggi. Mentre il pezzo della colonna sonora che vogliamo farvi ascoltare è un pezzo stupendo di Franklin Bukaka, congolese anche lui, appunto scrittore, poeta, soprattutto militante, ucciso nel 72 a soli 32 anni. Artista in prima linea nel dibattito politico, ha cantato sulla libertà dell'Africa e il coraggio delle figure emblematiche che hanno segnato la sua scena politica. Il carattere panafricano della musica di Bukaka fu tale che nel 69 ad Algeri creò al Pan African Festival, rimasero tutti stupefatti. È sicuramente la sua canzone più famosa, quella che vi facciamo ascoltare, Le Boucheron, che rivela ancora a più di 40 anni dal suo assassinio il vero significato del suo panafricanismo e che lotta attraverso i suoi versi cantati. Il suo messaggio, che risuona dal profondo della sua storia di lotta, parla ancora a generazione di africani. Il pezzo è suo e cantato da lui, è proprio quello è stato inciso, ma Manu Dibango, infatti se vedete la credice è Franco Mbukaha, Mbukaha e Manu Dibango, perché appunto Manu Dibango su questa base, che è tutta la canzone, Le Boucheron, ci ha innestato in particolar modo all'inizio e alla fine i suoi suoni jazz. Quindi questo è Le Boucheron, la colonna sonora, è un pezzo della colonna sonora di Viva Diva, Franco Mbukaha e Manu Dibango. Sibri Diop Mambeti è il regista di questo film, Le Yeines, Le Iene, un film senegalese del 92, che tra l'altro è stato selezionato anche in una competizione ufficiale lungometraggio al Festival di Cannes dello stesso anno. E la protagonista è una vecchia signora diventata ricchissima che ritorna al suo paese d'origine e il villaggio, in preda alla povertà, accoglie l'Ingheri, questo è il nome della signora, sperando di ricevere beni e favori per migliorare la propria situazione. E in realtà è tornato all'intenzione di condividere le sue ricchezze con il villaggio, ma solo in cambio di una particolare richiesta ai suoi concittadini, cioè l'uccisione di Draman, che aveva una volta, prima che lei diventasse ricchissima, corteggiato e ingannato la donna. E quindi il desiderio di vendetta e giustizia di Ningheri porta gli abitanti di Lobano a compiere azioni senza possibilità di controllo. E Jeno è basato, tra l'altro, su un'opera teatrale di Friedrich Dürrenmatt. La storia, originariamente ambientata in Svizzera nel secondo dopoguerra, viene portata a Mambeti sullo schermo e proiettata in un ipotetico paese dell'Africa occidentale negli anni '80. E nonostante le evidenti differenze temporali e geografiche, rimangono intatti i temi, riesce a trasportarli molto bene, se i temi della vendetta, della colpa individuale e collettiva, dell'onnipotenza e della, del denaro, e costituisce uno dei rari adattamenti cinematografici tratti africani, chiaramente tratti da opere europee. Tra l'altro, di opere Girilman Mambeti ha diretto soltanto due film, uno appunto Ienes e l'altro era un film diretto 20 anni prima, in cui esisteva una sorta di conflitto fra due generazioni, diciamo, di senegalesi, in cui appunto anche in questo caso comunque diciamo un conflitto cruento. Il film è importante anche perché, diciamo, parla dell'Africa dal punto di vista di un africano, e ne parla senza, diciamo, quel pietismo da un lato e dall'altro quel razzismo che molto spesso dà una visione distorta delle problematiche africane. Uno dei autori di uno dei pezzi del film è il bassista di opera, tra l'altro è il cugino, un cugino di Gipriop Mambeti, è un membro del gruppo Ludo, musicista senegalese molto noto anche a livello internazionale, soprattutto per aver, come tanti altri tra l'altro, aver mescolato la musica tradizionale senegalese con il pop moderno e il jazz. E facciamo ascoltare un pezzo. Il pezzo si intitola Mambeti Blues, appunto Vasisti Ope, tra l'altro questo è un pezzo suo, ma Vasisti Ope ha curato tutta la colonna sonora del film. I'm gonna hit it. I'm gonna hit it. I'm gonna hit it. whatever you know the Lord. Questo era il nostro ultimo pezzo. Vi ricordiamo i podcast, potete scaricarli dal sito wombat.noblogs.org a podcast Uru, e ci sono tutte le trasmissioni precedenti. Se avete perso l'inizio di questa, tra qualche giorno potete trovarlo. E vi ricordo anche twitter.com Radio Wombat Fi, quello di Uru è uru-rw, ascoltateci sulla M a 1359 e magari su postawombat@insiberia.net diteci un po' da dove l'avete ascoltato e come l'avete sentito. Prima di salutarvi, due cose ancora sul pezzo che abbiamo scelto come sigla. Vi ho detto che erano i Black Unfolosi, il titolo del pezzo è Elele Mama Africa, è a cappella come avete sentito, e l'abbiamo scelto perché praticamente dicono tutti i nomi di tutti gli stati che compongono il continente africano. Bene, ci sentiamo venerdì prossimo alle 21.30, in replica la domenica alle 23, scusate, e il lunedì alle 8.30 del mattino. Ciao, alla prossima. Ciao ciao. Uyelele mama siya chavula tina. Elele mama, elele mama. Oh yeah. Elele mama, elele mama. Zimbabwe. Elele mama, elele mama. Oh yeah. Elele mama, elele mama. Zambia. Elele mama, elele mama. Oh yeah. Elele mama, elele mama. Malawi. Elele mama, elele mama. Oh yeah. Elele mama, elele mama. Mozambique. Elele mama, elele mama. Oh yeah. Elele mama, elele mama. Angola. Elele mama, elele mama. Oh yeah. Elele mama, elele mama. Botswana. Elele mama, elele mama. Oh yeah. Elele mama, elele mama. Lesotho. Elele mama, elele mama. Oh yeah. Elele mama, elele mama. Swaziland. Elele mama, elele mama. Oh yeah. Elele mama, elele mama. South Africa. Elele mama, elele mama. Siyajabula thina. Elele mama, elele mama. Siyajabula thina. Elele mama, elele mama. Siyajabula thina. Elele mama, elele mama. Siyajabula thina. Elele mama, elele mama. Wow, Africa. Elele mama, elele mama. Wow, Africa. Elele mama, elele mama. Wow, Africa. Elele mama, elele mama. Wow, Africa. Elele mama, elele mama. Wow, Morocco. Elele mama, elele mama. Wow, Somalia. Elele mama, elele mama. Wow, Ghana. Elele mama, elele mama. Wow, Nigeria. Elele mama, elele mama. Wow, Gambia. Elele mama, elele mama. Wow, Sierra Leone. Elele mama, elele mama. Wow, Kipiti. Elele mama, elele mama. Wow, Africa. Elele mama, elele mama. Siyajabula thina. Elele mama, elele mama. Siyajabula thina. Elele mama, elele mama. Siyajabula thina. Elele mama, elele mama. Siyajabula thina. Elele mama, elele mama. Wow, Africa. Elele mama, elele mama. Wow, Africa. Elele mama, elele mama. Wow, Zimbabwe. Elele mama, elele mama. Wow, Zimbabwe. Elele mama, elele mama. Siyajabula thina. Elele mama, elele mama. Siyajabula thina. Elele mama, elele mama. Siyajabula thina. Elele mama, elele mama. Siyajabula thina. Elele mama, elele mama.